La Genesi, scienza o mito? Al numero 289 del Catechismo della Chiesa Cattolica si dice: tra tutte le parole della Sacra Scrittura sulla creazione, occupano un posto singolarissimo i primi tre capitoli della Genesi. Dal punto di vista letterario, questi testi possono avere diverse fonti. Gli autori ispirati li hanno collocati all'inizio della scrittura in modo che esprimano, con il loro linguaggio solenne, le verità della creazione, della sua origine e del suo fine in Dio, del suo ordine e della sua bontà, della vocazione dell'uomo, infine del dramma del peccato e della speranza della salvezza. Lette alla luce di Cristo, nell'unità della Sacra Scrittura e della tradizione vivente della Chiesa, queste parole restano la fonte principale per la catechesi dei misteri delle origini, creazione, caduta, promessa della salvezza. Questo punto del catechismo insiste sulla necessità di leggere il testo della Genesi alla luce di tutta la scrittura, evitando il pericolo di assolutizzare i primi versetti della Bibbia e cadendo nel concordismo o nel fondamentalismo. Si finirebbe infatti per far dire al testo quello che non vuole e non può dire. Per di più si rischierebbe di non cogliere il messaggio fondamentale e sconvolgente che esso contiene. Si tratta quindi di comprendere come questi testi debbano essere interpretati. Joseph Ratzinger ha scritto a proposito che non basta dire che la Bibbia non è un libro di scienza, composto secondo il modello di un diverso genere letterario. È vero che la Genesi è diversa da un libro di cosmologia e che sarebbe ingenuo cercare nella scrittura prove scientifiche, ma il pericolo sarebbe quello di fare appello in modo arbitrario a questo principio, finendo per giustificare qualsiasi interpretazione. Di fronte a ogni affermazione contenuta nei testi ispirati si potrebbe dire che essa dipende dal genere usato e non sarebbe quindi una verità in se stessa. Oppure si potrebbe intendere che il contenuto non è oggettivo ma soggettivo. La Genesi allora è vera nel senso scientifico del termine, oppure parla di qualcosa di opinabile che ognuno intende a partire dal proprio sentimento? La risposta va cercata nel principio storico, leggendo la Genesi alla luce non solo dell'ispirazione divina ma anche a partire dalle forme espressive del suo tempo. Allora se ne scopre il contenuto rivoluzionario e ci si rende conto che l'incipit della Bibbia inaugura un vero e proprio illuminismo. Si pensi a quanto fosse dissacratorio chiamare lampade il sole e la luna, cose che i grandi, Platone e Aristotele, non avrebbero mai fatto pur essendo di quasi due secoli successivi, eppure dei pastori ebrei lo hanno fatto. Così non ci si sorprende nemmeno di fronte a quegli evidenti elementi di estrazione mitica come il matrimonio tra i figli degli dèi e le figlie degli uomini di Genesi 6:1-4, che sembrano negare l'intenzione storica del testo sacro. Invece, per rendersi conto di come esso presenti una novità radicale rispetto ai miti cosmogonici delle altre religioni antiche, cioè rispetto a quelle narrazioni leggendarie che formavano il corpo dottrinale delle religioni pagane, basta accostare la Genesi ad alcuni esempi concreti. Se si prova a leggere l'Enuma Elish babilonese, si osserva che secondo questa narrazione mitologica il mondo trarrebbe origine dalla lotta tra potenze contrapposte, divenendo com'è quando Marduk, il dio della luce, vinse la battaglia contro il drago originario, simbolo del male, tagliandone in due il corpo. La parte superiore divenne il cielo e quella inferiore la terra, mentre dal sangue Marduk avrebbe creato gli uomini. Nelle nostre vene scorrerebbe sangue di drago. Solo Marduk può soggiogare il male e mettere ordine nel mondo. Ciò che salta subito agli occhi è la differenza rispetto alla Genesi. Questa narrazione sembra una favola, ma essa esprime anche in modo simbolico una verità, perché l'uomo vede in sé la tendenza al male. Inoltre, come in ogni mito antico, si dà l'opposizione dialettica di due principi, con uno scontro, nel quale vincono i buoni contro i cattivi. Anche la mitologia greca narra l'inizio dell'Olimpo in termini molto simili a una guerra tra cosche mafiose, con Urano, Crono e Zeus a contendersi il potere e a succedersi nel ruolo di dominio. All'inizio della Genesi, invece, c'è solo Dio che crea liberamente con la sua parola. Non c'è scontro né un'azione necessaria, ma un dono reale che si traduce nella gratitudine dell'uomo, espressa anche liturgicamente nel culto e nel rispetto del sabato. A ciò bisogna aggiungere che solo il Nuovo Testamento spiega perfettamente l'Antico. L'ultimo vero racconto della creazione è infatti l'incipit del Vangelo di Giovanni, Giovanni 1:1-3. In esso l'intenzionale rilettura cristologica dell'in principio libera dalla schiavitù della lettera e restituisce la verità delle immagini. All'inizio dell'Evo moderno si indebolì questa libertà nei confronti della lettera per cercare di spiegare il singolo pezzetto di realtà guardando solo indietro, senza pensare al fine, al senso. Da qui nacque il conflitto tra scienza naturale e teologia, che invece storicamente si sono sviluppate insieme. La creazione è dunque fondamentale, perché ci dice il senso del cosmo e di noi stessi. Solo se il mondo deriva dalla libertà, dall'amore e dalla ragione, possiamo aver fiducia gli uni negli altri e vivere come uomini. Questo è lo sconvolgente contenuto oggettivo offerto dalla Genesi, un contenuto che interpella e interessa ogni soggetto in ogni tempo. Ciò non è considerato da coloro che si oppongono alla dottrina della creazione. Ad esempio, a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, l'entusiasmo per i risultati scientifici raggiunti fece dire al fisico matematico Pierre-Simon Laplace: «Non ho più bisogno dell'ipotesi di Dio». Ma dopo poco lo stesso sviluppo scientifico mise in luce i limiti della conoscenza umana, come accade con lo studio della complessità e la fisica del caos e con il famoso teorema di Kurt Gödel. In qualche modo, proprio lo studio della natura evidenzia un limite conoscitivo insito nella natura stessa, che si dimostra in un certo senso pensata in modo da rimanere sempre al di là delle capacità di indagine dell'uomo. E questa eccedenza logica della natura rinvia a un'istanza di pensiero sovraumana che ne sia origine. Per questo molti scienziati hanno saputo riconoscere l'impronta divina nel creato. Si pensi a Albert Einstein, il quale in Religione e Scienza del 1930 spiegava che nelle leggi della natura si rivela una ragione così superiore che tutta la razionalità del pensiero e degli ordinamenti umani è al confronto un riflesso assolutamente insignificante. Così la narrazione scritturistica non è né scienza né mito, ma è il racconto dell'origine dell'uomo a partire dalla sua relazione con Dio, a partire dal dono e non dalla necessità. Le due narrazioni. Nella Genesi l'origine di ogni cosa è presentata in due narrazioni, una prima in Genesi 1:1-2:4a e una seconda in Genesi 2:4b-25. 1. Genesi 1:1-2:4a è denominata abitualmente narrazione P, da Priester Codex, codice sacerdotale, fonte che appare in diversi punti dell'Antico Testamento. In essa Dio è indicato con il nome di Elohim, tipico delle redazioni sacerdotali appunto, e fu messa per iscritto all'epoca del secondo esilio del popolo di Israele durante la deportazione a Babilonia, VI secolo a.C. Aveva come scopo rafforzare la fede in Dio creatore, sempre capace di misericordia e di salvezza, anche in terra straniera, anche quando l'arca è stata persa e Gerusalemme è caduta. L'opera creativa è distribuita su 7 giorni e il testo è teologicamente più ricco rispetto alla seconda narrazione. Il fine principale è liturgico-cultuale. 2. Genesi 2:4b-25 è detta narrazione ilunga o tradizione yavista dal nome con cui vi si indica Dio, Yahweh appunto. Si tratta di un testo di redazione più antica, 10° e 10° secolo a.C., e dal carattere maggiormente antropologico. La narrazione P riprende temi mitici sia babilonesi, già si è accennato al poema Enuma Elish, che egizi, ad esempio l'inno al dio Atum-Ra. Da qui prendono spunto la contrapposizione di luce e tenebre, la tematica del giardino regale e la costola che dà origine alla donna. Ma le differenze sono sostanziali. Il caos e le tenebre non hanno un'attività propria, non sono un drago cattivo. Il sole e la luna non vengono considerate divinità, ma semplici lumi. L'uomo e la donna non appaiono come servi degli dèi, ma come persone libere, immagini del creatore. Si può distinguere un opus distinctionis, luce tenebre, acque superiori e inferiori, e un opus ornatus, dove l'azione principale è il creare, ad esempio le stelle e gli animali. Il primo è particolarmente importante perché alla distinzione si riconnettono l'identità e quell'alterità non dialettica che permette e fonda la relazione e quindi l'armonia sinfonica del creato, la sua unità nella diversità. Il termine giorno ovviamente non indica uno spazio temporale di 24 ore, ma si riferisce alla dinamicità dell'azione. L'uomo viene creato il sesto giorno, al vertice dell'opera di Dio, il quale infine si riposa il settimo giorno, indicando come senso di ogni cosa la contemplazione e l'adorazione. La scelta di una distribuzione su sette giorni ha un valore cultuale, che tende a favorire la memoria di quanto accaduto e quindi la lode e la riconoscenza, in particolare nel settimo giorno. Si noti che non si è di fronte a uno schema ciclico, ma lineare. Si tratta di una ascesa. In questa narrazione gioca un ruolo fondamentale il primo versetto, dove compaiono sia il principio, reshit, che il verbo creare, bara. Il secondo termine esclude qualsiasi realtà preesistente al di fuori di Dio. Questi è l'unico che nell'Antico Testamento può essere soggetto del verbo creare. Esso appare circa 50 volte e richiama l'idea di tagliare, squarciare, è applicato al cielo e alla terra, Genesi 1.1, all'uomo e alla donna, Genesi 1.27, a tutte le cose che Dio ha fatto, Genesi 2.3.4, Isaia 45.8, ma indica anche l'azione con cui il Signore compie le sue opere salvifiche in favore del suo popolo, Esodo 34.10, e con cui rinnova l'intimo del cuore umano. Salmi 51.12, Geremia 31.22. E infine l'opera della creazione di nuovi cieli e di una nuova terra alla fine dei tempi. Isaia 65.17. Si tratta dunque di un'azione divina con effetti tanto nell'ordine cosmico come in quello salvifico, sia al principio, arché, che alla fine della storia, telos, che non implica né intermediari né cause subordinate. Solo Dio può compierla. Per quanto riguarda il principio, invece, se ne possono dare tre interpretazioni. A. Letterale, in riferimento all'inizio dei tempi. B. Mistico-tipologica, in riferimento al prologo di Giovanni. C. Mitica, dove il principio avrebbe una valenza gnostica, in riferimento all'origine dalla quale i diversi livelli della realtà sarebbero derivati in modo necessario per decadimento. Quest'ultima lettura non si accorda con il resto della scrittura poiché è antistorica. Si tratta invece del primo evento dell'universo. Cielo e terra rappresentano biblicamente l'intera realtà, cioè l'universo, che la lingua ebrea non può indicare con alcun vocabolo specifico. Dai padri l'espressione è stata letta fin da subito in termini di visibile e invisibile, includendovi anche gli angeli e le creature spirituali. La Genesi insiste molto sulla pura positività della creazione, come rivelano le ripetizioni delle affermazioni della sua bontà. Addirittura, dopo la creazione dell'uomo, il frutto dell'opera divina è detto essere molto buono, in quanto questi è fatto ad immagine e somiglianza di Dio ed è portatore e custode del senso filiale del mondo. Ogni forza negativa, ad esempio i mostri marini, è spogliata della propria potenza e ricondotta all'atto divino, in una chiara negazione del dualismo, concezione che oppone al principio del bene un ulteriore principio originario al quale bisognerebbe ricondurre il male. Proprio questo evidenzia la differenza rispetto alle cosmogonie pagane. Il mito era, per i greci, la storia degli dei, che mostrava i valori morali ai quali gli uomini dovevano attenersi. A causa della convinzione che il mondo fosse eterno, la storia non era reale, ma tutto era sottoposto al dominio del fato, cioè della necessità. Nelle narrazioni mitologiche non si trattava di raccontare oggettivamente il passato, ma di insegnare come affrontare il futuro, imparando ad assoggettarsi al dominio del destino ed evitando di opporsi ad esso. L'eterno ritorno implica infatti una coincidenza dell'inizio e della fine, una perfetta simmetria tra passato e futuro che esclude la possibilità di autentica novità. Si tratta di qualcosa di totalmente diverso rispetto al cristianesimo, dove tutto è giocato sulla libertà e sulla storia. La Genesi può contenere degli elementi che ricordano il mito, perché quello era il linguaggio a disposizione della cultura degli uomini che l'hanno scritta, ma non ha nulla a che vedere con le cosmogonie del tempo. La forma è segnata dai limiti storici, ma il contenuto trascende le capacità meramente umane, rivelando un autore trascendente. Si pensi a quanto sia sconvolgente, anche a livello di propria esperienza personale, il fatto che si riconduca l'origine del mondo solo al bene, quando il male ha un'evidenza fortissima nell'esistenza di ogni uomo. Nella Genesi manca invece chiaramente la dialettica violenta tra il caos e Dio. Non c'è lotta, non c'è nemico. Non si nota quindi traccia di dualismo. Basti pensare alla demitologizzazione delle stelle, considerate, come detto, divinità da tutte le culture pagane e dai grandi filosofi, ma che questo povero e debole popolo ebreo sa essere state create il quarto giorno. Esse quindi non hanno la luce da sé e sono addirittura inferiori agli uomini. Tutto, secondo la Genesi, obbedisce al Logos, alla parola divina. Tutto segue il suo progetto e la sua volontà. Inoltre, secondo Joseph Ratzinger, nella narrazione biblica mantengono valore non solo la visione d'insieme, ma anche le singole asserzioni, come rivela ad esempio l'uso intenzionale dei numeri 3, 4, 7 e 10. All'inizio della Genesi appare infatti 10 volte «Dio disse». Ciò indica che il mondo è costituito su 10 parole divine, cui corrispondono i 10 comandamenti significativamente chiamati le 10 parole. Esodo 34:28, Deuteronomio 4:13, 10:4. In quanto sono l'eco della creazione, essi non sono dunque una legge estrinseca, ma corrispondono all'essere stesso del mondo. Anche per quanto riguarda i 7 giorni, questa scansione indica come tutto tende al sabato, che è il senso del mondo. La creazione tende all'adorazione, alla riconoscenza del dono. Il creato esiste per adorare, anche se con la religione naturale si è portati a proiettare nel divino il limite umano e si finisce per pensare che gli dèi abbiano bisogno del culto degli uomini, secondo un rapporto di forza e ricatto, e non secondo una relazione d'amore. Invece Dio non ha bisogno dell'uomo, non ha bisogno di nulla, ma crea per amore. Per questo proprio il sabato, e quindi l'adorazione e la contemplazione, danno il senso al mondo. Dio lo ha creato per iniziare una storia d'amore con l'uomo, per effondere il suo amore, fino all'estremo di incarnarsi e farsi creatura. E la legge è proprio riflesso di questo amore. Celebrare il sabato non vuol dire dunque soddisfare un precetto perché la divinità non si arrabbi, ma vuol dire celebrare l'alleanza, riconoscere l'amore e il dono come anticipo di quel mondo nuovo che corrisponde al fine e al disegno divino. Lo stesso è il senso del giubileo, che cade ogni 7 settimane di anni, quando il dono irrompe nuovamente nella storia e tutti tornano all'inizio senza debiti né schiavi. Si afferma in questo modo che il mondo si trova nelle mani di Dio, che il suo senso sono la gratuità e l'amore. In questo contesto, la creazione dell'uomo e della donna assume un rilievo particolare, come indica la ripetizione del verbo creare, bara. Si tratta di un nuovo atto divino che implica come un raccogliersi di Dio in se stesso. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, Tselem, a nostra somiglianza, Demut, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Genesi 1, 26-27. Sia il termine creare che il termine immagine vengono ripetuti tre volte, numero che insieme al passaggio al plurale sembra costituire un riferimento trinitario. Giovanni Paolo II ha parlato di un primo lontano segnale trinitario e di un particolare rivolgersi a se stesso, ad intra, di Dio che crea, 9 aprile 86. Tertulliano, Ireneo e Agostino e molti altri hanno esplicitamente commentato questo passo in senso trinitario. La coppia immagine e somiglianza ha una lunga storia interpretativa. Alcuni padri hanno distinto l'immagine dalla somiglianza anche per identificare ciò che è rimasto intatto nell'uomo, immagine, rispetto a ciò che si è perso con il peccato originale, somiglianza. La perfezione consisterebbe nel recupero proprio della somiglianza. Ma per la maggior parte dei padri, come per l'esegesi contemporanea, sembra si tratti di sinonimi. Sicuramente il senso pieno del testo si può cogliere solo in Cristo, che in quanto Figlio eterno è immagine perfetta del Padre. La narrazione Ilunga è meno cosmologica e più antropologica. Punto essenziale è la creazione dell'uomo come ricezione dello spirito di vita. Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, Neshama, e l'uomo divenne un essere vivente, Nefesh, Genesi 2:7. Nell'Antico Testamento Nefesh designa sia la vita sia l'uomo e viene utilizzato circa 70 volte in riferimento all'essere umano individuale, alla persona. L'uomo diventa un vivente, Nefesh, al ricevere il respiro di vita, Neshama, da Dio. Per questo l'uomo viene presentato come custode del giardino, capace di dare nome agli animali. Creato a immagine e somiglianza dalla parola del suo creatore, l'uomo è capace di dare nome alle creature, in modo tale che già fin dall'inizio della Genesi al Logos divino corrisponde il Logos dell'uomo. L'uomo non è un essere semplicemente fatto, ma anche chiamato e interpellato da Dio. Il testo sacro lo presenta per questo come interlocutore del Creatore, capace di ricevere un compito. Il Signore prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse, Genesi 2:15, che la Vulgata traduce con ut operaretur et custodire tillum. L'uomo è creato per lavorare in quanto immagine e somiglianza di quel Padre che dirà Gesù opera sempre, Giovanni 5:17. Nel resto della Genesi si presenta la caduta con le sue conseguenze per tutto il genere umano, Caino e Abele, Torre di Babele. Si afferma chiaramente la trasmissione dell'immagine di Dio ai discendenti di Adamo, Genesi 5. L'episodio del diluvio universale e il patto con Noè, Genesi 9, rivelano come Dio non possa rimanere indifferente di fronte al male dell'uomo, che continua a peccare nel corso della storia, ma nello stesso tempo mostrano come il Dio creatore possa e voglia rinnovare la creazione stessa deturpata dall'uomo, stipulando un'alleanza che poi si rinnoverà nella vocazione di Abramo e del popolo eletto come famiglia di Dio, da Genesi 12 in poi. Tutti questi contenuti antropologici assumono la loro autentica e più piena significazione solo con il Nuovo Testamento, quando Cristo, rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo all'uomo, Gaudium et Spes 22. A questa realtà si ricollega anche il richiamo di Gesù al principio, quando presenta il vero disegno divino sul matrimonio, in Matteo 19:4-8. Ma tutte queste riflessioni devono essere inquadrate anche nell'insieme del resto dell'Antico Testamento.